lascia mi cammi fermo. Occhiatori di Vangeli, occhiatori di fronte a me. Quattro chiacchiere e un numero, un weekend passato insieme con i Reggae e Glory Boys. Mio compleanno, quando se ne andò rimase il suo profumo. Occhiatori nel mio cuore, Occhiatori non vuole volare, Occhiatori non era per me, Occhiatori non vuole volare.